Il Pinsimonio, 5 parole per condire il tuo linguaggio. Buongiorno e benvenuti alla 39esima puntata del Pinsimonio radiofonico. Le parole di oggi sono indolenza, ignavia, viltà, malizia e infingardo. Cominciamo con indolenza, che deriva dal latino indolentia, che significa assenza di dolore, e nel senso non comune del linguaggio medico indica una mancanza di dolore riferito a una parte del corpo malata, invece nell'uso comune indica un'indifferenza d'animo, un'inerzia, un'apatia, una pigrizia. L'indolenza di alcuni studenti è incredibile. Simile a questa parola è ignavia, che letteralmente significa pigrizia o indolenza spirituale, oppure viltà. E viltà invece in senso antico o letterale significava il fatto o la condizione di avere scarso valore e pregio. Viltà si usava anche per riferirsi a qualcosa di umile origine e di umile condizione sociale, e riferito a persona indica l'essere vile, il mancare di coraggio e fermezza o avere bassezza d'animo. In quell'occasione mostrò tutta la sua viltà. Da qui andiamo a malizia, che è una tendenza, un'inclinazione a commettere il male consapevolmente o l'intenzione stessa, la volontà di fare il male, di recare danno, agire con malizia. In senso concreto è un'azione astuta, un sottile accorgimento per raggiungere un fine più o meno lecito. Per estensione, malizia è anche la conoscenza che ciascuno ha dei segreti della sua arte, gli utili espedienti che sono il frutto di una lunga pratica, le malizie dei fotografi per ottenere certi effetti di luce. Continuiamo e terminiamo con infingardo, che in un senso più antico indicava qualcuno che si infinge, cioè che simula, quindi falso, mentitore, o anche riferito a cose ingannevoli o illusorie. E infingardo si dice di persona che per cattiva volontà fugge da ogni fatica ed è molto lenta e pigra nell'operare, quindi fannullone o poltrone, e quindi per estensione indica qualcuno di pigro, indolente o apatico, che non ha voglia. E con questa parola termina la puntata di oggi. Io vi ricordo che il Pinsimonio radiofonico lo potete ascoltare alle 9:15 il martedì, mercoledì e giovedì sui 103.1 di Radio Città Fujiko, e inoltre è disponibile anche il podcast alla pagina Facebook Il Pinsimonio radiofonico, alla quale vi invito ad iscrivervi. Buon proseguimento sui 103.1. La base di oggi è gentilmente offerta da Fulvio della Ragù Records, che si scrive con due O e che potete trovare su Facebook, Bandcamp e SoundCloud. Il Pinsimonio è curato e condotto da Maurizio Casertano. Le definizioni delle parole proposte in questo programma sono tratte direttamente dal sito dell'Enciclopedia Trecani, per gentile concessione dell'editore. È vietata qualsiasi riproduzione e utilizzazione di carattere non strettamente personale, e la ritrasmissione in rete o l'invio in qualunque forma. Grazie e buona giornata. Il Pinsimonio, 5 parole per condire il tuo linguaggio.